con la coautrice e attrice Donatella May per presentare la performance LGBTQ a Roma, al Macro Asilo, martedì 19 febbraio 2019. Donatella, ben trovata. Ciao, ben trovato a te, bentornati a tutti, eccetera, eccetera. Allora, Raccontaci. ecco, LGBTQ è nato da un mio desiderio di giocare sulle definizioni, perché sentivo il bisogno di libertà, in realtà, nel senso vorrei che ci fosse un mondo, lo so che è un'utopia, però mi piacerebbe un mondo in cui ognuno potesse vivere la sessualità come vuole, con chi vuole, quando vuole, poter anche cambiare idea, nel senso magari da, che ne so, da etero diventare gay, da gay diventare trans, da trans diventare un'altra cosa, eccetera, eccetera. Mi piaceva quest'idea di poter scavalcare anche le definizioni, no? Nel senso, siamo tutti definiti vegani, vegetariani, carnivori, pescivori, onnivori, no? Sì. Di destra, di sinistra, e quello va bene, e quello va bene che rimanga, però, e purtroppo quello invece le definizioni stanno sfumando, però, ecco, insomma, e quindi è un po' un gioco, questo LGBT, siamo in tre e giochiamo un po' sulle definizioni. È un'idea nata appositamente per questo appuntamento al macro o già era in essere? No, era già in essere, perché io l'avevo pensata per un altro luogo che si chiama Sensimento, dove ho già partecipato. E poi in realtà al Macro ho visto la Black Room, che chiaramente è stata, insomma, l'ho cominciata a pensare per quel luogo lì, perché la Black Room mi interessava, ricorda un po' la Dark Room, è una stanza un po' più scura, molto bella. Il Macro Asilo è un'iniziativa, secondo me, straordinaria quest'anno. E quindi ci si sta bene, è una bella aria. La performance poi dura pochissimo, dura massimo 20 minuti e viene ripetuta più volte dalle ore 18 alle 20. E siamo in tre, appunto, ed è un po' è un gioco, viene anche coinvolto un po' il pubblico se si fa coinvolgere. Senti, poi hai intenzione di svilupparla in qualcos'altro? No, perché questa è carina così perché Ok. è molto agile, scorre, leggera, può essere sviluppata, però ho paura che sviluppando si potrebbe perdere di leggerezza. Ci racconti anche un po' delle tue compagne di giochi? Sì, allora, una è Daniela Cirone, che è un'attrice anche lei, un po' autrice anche lei, e Silvia Sarra anche. Entrambe fanno altri lavori, non sono, diciamo, professioniste, ma anch'io non mi considero una professionista, perché poi i professionisti sono gli avvocati, i notai, i commercialisti, insomma, noi siamo artisti, no? E quindi poco professionisti. No, non lo so, è una mia provocazione. Però sì, scrivono anche loro un po', recitano anche loro e si sono prestate per questo gioco. In realtà, nella performance reale non ci sarà Silvia Sarra, ma ci sarà Francesca Margognoni, che è un'altra attrice. Con loro già hai fatto altre cose? Con Daniela sì, abbiamo fatto comici poetici un bel po' di volte, con altre persone però, io e lei da sole no, è la prima volta. E anche con Silvia Sciarra, e anche con quest'altra ragazza è la prima volta. Sì, così a tre è una prima È volta, una però prima volta. appunto sì, appunto non è uno spettacolo, è proprio una performancina, insomma, almeno. Ho visto che c'è l'evento Facebook, ci dai anche i tuoi riferimenti web per saperne di più? Certo, io sono sia su Facebook come Donatella May e sia ho un sito www.donatellamay.com. Perfetto. Allora, ricordiamo l'appuntamento con la performance LGBTQ a Roma al Macro Asilo martedì 19 febbraio 2019. Un saluto e un ringraziamento alla coautrice e attrice Donatella May. Un abbraccio, in bocca al lupo e a presto. grazie, crepi il lupo, grazie Federico, auguri a te e a tutta la redazione lì di Radio Onda Rossa. A Un bacio presto. grande, Ciao, ciao, ciao. ciao.